La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è oggi dedicato alle proteste di Piazza Tiananmen a Pechino. 20 anni fa, un gruppo di studenti occupò la piazza scandendo lo slogan «Abbasso la rivoluzione, viva la democrazia, viva la Cina». Ospite ai nostri microfoni Guido Samarani, docente di storia della Cina contemporanea all'Università Ca' Foscari di Venezia. Nella seconda parte, in collaborazione con History Channel, vi proponiamo un radiodocumentario che racconta le imprese dei piloti afroamericani passati alla storia come lo Squadrone Nero, che contro ogni pregiudizio razziale combatterono sui cieli tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Vi segnaliamo che la versione integrale del documentario andrà in onda su History Channel martedì 21 aprile alle 9.40, col titolo Lo Squadrone Nero. Ma adesso la parola va a Dino Pesole. Venti anni fa, il 18 aprile del 1989, un gruppo di studenti occupava piazza Tiananmen a Pechino al grido «Abbasso la rivoluzione, viva la democrazia, viva la Cina». E fu una protesta che assunse sempre più nei giorni successivi i caratteri di una ferma opposizione al regime dittatoriale cinese. Fu dapprima un moto spontaneo, poi nel corso delle settimane il numero degli studenti crebbe fino a raggiungere alcune migliaia. Le richieste erano precise: lotta alla corruzione, risanamento dell'economia, avere più voce nelle scelte future del paese. Le prime manifestazioni di dissenso contro il governo di Pechino avevano avuto inizio il 15 aprile 1989, durante i funerali di Hu Yaobang, ex collaboratore di Deng, allontanato negli ultimi anni dalla vita politica perché considerato troppo riformista. La risposta ufficiale arrivò il 25 aprile dalle pagine del quotidiano del Popolo a firma proprio di Deng Xiaoping, che anche se non aveva più nessun ruolo all'interno del governo, di fatto era il vero leader in Cina. Nell'editoriale, Deng accusò gli studenti di complottare contro il governo e di fomentare nuove agitazioni di piazza. Sfidati dalle massime rappresentanze del Partito Comunista, 100.000 persone marciarono per le strade di Pechino chiedendo più libertà di espressione e una maggiore rappresentanza politica. Il 13 maggio, 2.000 studenti si radunarono in piazza Tiananmen, dove venne eretta la statua che raffigurava la dea della democrazia, simbolo delle aspirazioni di libertà dei manifestanti. Con il passare dei giorni, alle richieste degli studenti si unirono quelle degli operai, tanto che il movimento andò guadagnando sempre più popolarità non solo in Cina ma anche all'estero. L'ultimo appello alla pacificazione fu tenuto da Zhao Ziyang, unico membro dell'establishment cinese che tentò di stabilire un dialogo con i rivoltosi. Il 19 maggio Zhao fece la sua ultima apparizione pubblica in piazza Tiananmen, dove tenne un discorso attraverso il quale cercò di convincere i rivoltosi a porre fine alle manifestazioni, in particolare agli scioperi della fame. L'appello di Zhao non ebbe seguito. Il 20 maggio il governo cinese dichiarò l'introduzione della legge marziale. Anche se l'esercito aveva ricevuto l'ordine di non sparare sulla popolazione civile, la situazione precipitò in pochi giorni. Nella notte tra il 3 e il 4 giugno, l'esercito raggiunse piazza Tiananmen per sgomberare gli ultimi gruppi di manifestanti. La decisione di sparare sui manifestanti fu presa da Deng Xiaoping, all'epoca capo della Commissione Centrale Militare. Il bilancio delle vittime di piazza Tiananmen rimane tuttora avvolto nel mistero. Dopo una prima stima di 271 morti, inclusi i militari, e di circa 7.000 feriti, il governo cinese non ha mai reso pubblico alcun documento in merito ai fatti di Tiananmen. Inizialmente la Croce Rossa cinese parlò addirittura di 2.600 morti e 30.000 feriti, ma fu subito costretta a ritirare le proprie stime. Il 5 giugno, durante gli scontri di piazza Tiananmen tra studenti e militari cinesi, il mondo intero rimase a guardare un giovane manifestante che fu capace di opporsi all'esercito popolare di liberazione fermo davanti alle file di carri armati che procedevano lungo le arterie della capitale cinese. Il giovane rivoltoso divenne il simbolo della resistenza passiva. Il ribelle sconosciuto, o Tank Man, l'uomo del carro armato, come venne ribattezzato in Occidente. Il governo di Pechino, come sappiamo, ha steso sui fatti di Tiananmen un velo di omertà che ancora oggi, a 20 anni di distanza, non è mai stato squarciato. Abbiamo in linea il professor Guido Samarani, che è docente di storia della Cina contemporanea all'Università Ca' Foscari di Venezia e autore di un importante libro, La Cina del Novecento, pubblicato da Einaudi. Professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Abbiamo concluso poc'anzi le rievocazioni di quel che accadde a Pechino 20 anni fa, rievocando la figura di questo giovane, diciamo, rivoltoso che è divenuto un po' il simbolo della resistenza passiva. Ma cosa accadde veramente a Piazza Tiananmen 20 anni fa, professore? Purtroppo devo dire che molti aspetti oscuri, poco chiari di quella vicenda continuano a restare. Abbiamo avuto dei tentativi di ricostruzione, uno ufficiale che poi la presa di posizione su quegli eventi che praticamente lascia aperte tutta una serie di informazioni ed è un documento politico nel senso più generale, più generico del termine, ma che non va a fondo di tutta una serie di questioni. E poi abbiamo avuto tentativi di ricostruzione anche da parte di studiosi all'estero, chiamiamoli dissidenti o non dissidenti, da parte di studiosi occidentali, in particolare americani, che hanno, credo, in certi punti, ricordo ad esempio i famosi Tiananmen Papers, le carte di Tiananmen, che è stato tradotto anche vari anni fa in italiano, e che gettano una serie di ipotesi più che di conoscenze, di fatti, su quello che avvenne nel Partito Comunista Cinese in quei mesi di aprile, maggio e giugno 1989. Però il quadro che abbiamo oggi è purtroppo ancora abbastanza frammentario, parziale, possiamo fare delle ipotesi. Dopo 20 anni la Cina, dal mio punto di vista, non ha fatto poco nulla per chiarire quello che avvenne. E l'altro elemento è che non si è trattato di una, diciamo, rivolta di pochi o di una ribellione o di una protesta, chiamiamola, di pochi. Si è trattato, credo, di uno dei veri propri movimenti popolari di massa, giovanili e non, che il paese ha conosciuto dal 1949 in poi, e credo che questo dovrebbe essere un motivo da parte delle autorità cinesi per compiere, di sentire la necessità di compiere una riflessione più approfondita su quegli eventi, perché l'idea che poi ufficiale è stata tramandata della rivolta controrivoluzionaria. Ma è rimasto qualcosa, professore? Mi rendo conto che è complesso dirlo, soprattutto in un paese in cui non c'è libertà. Dunque, è rimasto qualcosa della protesta di Piazza Tiananmen, come dire, nella società cinese, oppure, come dire, si è dissolto l'effetto di quello che accadde? È difficile in effetti dirlo, perché queste sono cose che poi vanno dentro, diciamo, appartengono più alle coscienze individuali che a quelle collettive in Cina, data la situazione. Sì. Quindi io posso dare delle idee, delle sensazioni che ho raccolto in questi anni parlando con questo o quell'amico, questo o quel collega, mettendo assieme un po' una specie di piccolo puzzle di una serie di sensazioni. La mia idea generale intendo dire, esclude probabilmente una minoranza di intellettuali del dissenso e attivisti che si sono sempre fatti comunque presenti in questi 20 anni, ma la stragrande maggioranza credo che la cosa sia stata in buona parte, se non dimenticata, comunque accantonata. Mm-hmm. La mia impressione è che, diciamo, il grosso del paese, del popolo cinese si sia impegnato, contento o non contento, completamente soddisfatto o completamente non soddisfatto che sia, si sia concentrato sui problemi poi reali, chiamiamoli così, cioè i problemi concreti della vita, dello sviluppo, della crescita, del benessere, che hanno caratterizzato, come sappiamo, la Cina negli anni 90, in questi primi anni del XXI secolo. Credo che da questo punto di vista penso che la cosa sia abbastanza sia messa oggettivamente in un angolo, sì, la memoria collettiva. Non lo so a livello individuale, credo che i cinesi parlino poco volentieri di questo. Su questo le mie impressioni, i miei contatti confermano che è un tema di cui non si insomma, non è bene, non è particolarmente positivo o utile parlarne. 20 anni questo, dopo. Questo non vuol dire però che la memoria di fondo, dello sfondo, non ci sia. Thank you. La storia e la memoria. Ben ritrovati. Il radiodocumentario che vi proponiamo questa sera è dedicato alle imprese dello Squadrone Nero, la prima flotta aerea afroamericana della storia dell'aviazione militare statunitense. Vi segnaliamo che la versione integrale del documentario andrà in onda su History Channel martedì 21 aprile alle 9.40. 18 luglio 1944. 66 Mustang dalla coda rossa del 332esimo gruppo caccia, i ragazzi di Tuskegee, sorvolano la pianura padana nel nord dell'Italia. Stanno scortando una formazione di fortezze volanti B-17 che deve bombardare la base aerea di Memmingen, in Austria. In forza alla squadriglia ci sono il capitano Wendell Pruitt e il suo gregario, il tenente Lee Archer. Li hanno soprannominati Gruson Tuson, il terribile duo. Il lead è un pilota di grandi abilità e sicuro di sé. Archer è un gregario leale, molto capace e determinato. Di colpo viene segnalata la presenza di aerei nemici a ore 3. È una formazione di 4 ME-109 e punta dritto sulle fortezze volanti. Il terribile duo entra in azione. Pruitt si lancia in un'ampia virata in discesa, seguito da Archer. Il capitano punta su uno dei caccia nemici. Il tedesco se ne accorge e rompe la formazione. I Mustang si lanciano subito all'inseguimento con una secca virata. Seppure a fatica, Archer riesce a restare in coda al suo compagno. Ben presto però, il gregario capisce che qualcosa non va. Tenente colonnello Lee Archer, ex pilota. L'altro aereo aveva raddrizzato per ben 3 volte, ma Pruitt non aveva sparato. Allora l'ho affiancato e gli ho chiesto cosa stava succedendo. Le sue mitragliatrici si sono inceppate. Toccherà ad Archer passare in testa. Il pilota accelera, avvicinandosi al nemico. Il 109 si lancia in una vertiginosa picchiata, ma è tutto inutile. Ancora tenente colonnello Lee Archer. Ho aperto il fuoco e l'ho colpito. Poi una seconda scarica ha centrato l'ala e lui si è lanciato. Per Archer questa è la prima vittoria. I due si riaggregano al 332esimo. La battaglia sta infuriando. Almeno altri 30 ME-109 stanno attaccando i bombardieri da ogni direzione. Il tenente Clarence Lucky Lester sente alla radio la voce del suo capo squadriglia. Segnala l'arrivo di caccia ostili a ore 3. Lester e il resto della squadriglia si portano a destra in rotta di intercettazione. Lester non è stato ancora individuato e quando è a 50 metri di distanza apre il fuoco con le sue mitragliatrici. L'ME-109 si lascia dietro una scia di fumo. Mentre sorvola le cime delle Alpi italiane, nota un altro ME-109 in basso a ore 2. Il tenente si lancia in picchiata a tutta velocità. Il Mustang supera i 550 km orari facendo ululare il suo motore Merlin. Il dito preme il grilletto. Una serie di traccianti sfreccia davanti al muso dell'ME-109. Il tedesco effettua una brusca virata cercando di sfuggire al rivale con un tonno rovescio. Ma la manovra è azzardata, sta volando troppo basso. Sbalordito, Lester osserva il caccia schiantarsi contro un pendio. L'americano riprende quota, eccitato dall'intensa battaglia. Il resto del 332esimo ha abbattuto altri 9 tedeschi, portando il totale a 12. Per i ragazzi di Tuskegee è una data epocale. Ma nel corso della guerra questi piloti non hanno dovuto combattere solo contro la Luftwaffe. Considerati dal Dipartimento della Guerra inferiori ai bianchi e incapaci di usare armi troppo sofisticate, i militari afroamericani sono relegati a ruoli marginali. Pilotare aerei da caccia è fuori discussione. Cedendo alle pressioni della stampa afroamericana, dell'Associazione per la promozione delle persone di colore e persino di sua moglie, Nel 1939 il presidente Roosevelt dà ordine di ammettere al programma di addestramento al volo anche gli studenti neri intenzionati a iscriversi. Nel dicembre del 1940 il Dipartimento della Guerra investe $1 milione nella costruzione di una base di addestramento per piloti di colore presso l'Istituto Tuskegee in Alabama. L'iniziativa viene considerata un esperimento. Fortemente motivati e spinti da un forte orgoglio razziale, gli uomini legano immediatamente. Nell'aprile del 1943 la 99esima squadriglia, la prima interamente composta da piloti afroamericani, viene smistata sul teatro del Mediterraneo. Nel giugno 1944 la 99esima si aggrega ad altre 3 squadriglie di piloti di colore. Insieme formano il 332esimo gruppo caccia. Passeranno alla storia come i ragazzi di Tuskegee. 24 agosto 1944. Il tenente Charles McGee, del 332esimo gruppo caccia, sta scortando un gruppo di bombardieri pesanti. Il loro obiettivo è la base aerea di Pardubice, in Cecoslovacchia. Mentre la base aerea si profila all'orizzonte, l'americano cerca segni del nemico. Il comandante della squadriglia di McGee preannuncia l'arrivo di 2 Focke-Wulf 190 in quota a ore 4. McGee e i suoi virano per affrontare i Focke-Wulf. Stanno per sfidare il più avanzato caccia monomotore dell'aviazione tedesca. Il Focke-Wulf 190 è un avversario agile e coriaceo. Il P-51C di McGee è più veloce e manovrabile, ma il 190 è più robusto e meglio armato. I Mustang guadagnano terreno sui rivali. Ma quando i tedeschi si rendono conto del pericolo, si separano. Assieme al proprio gregario Roger Romain, McGee si lancia all'inseguimento di uno dei 190. Disperato, il pilota tedesco fa di tutto per scrollarsi i 2 Mustang di dosso. Tonneau, picchiate, bruschi cambi di direzione. McGee sfrutta la maggiore velocità del P-51 e si avvicina al bersaglio. Ma il duello si sta avvicinando pericolosamente alla base aerea nemica. Colonnello Charles McGee, ex pilota. Ricordo che mentre ero sulla base aerea ho visto gli hangar in fiamme e i caccia ancora al suolo. Le batterie antiaeree sparano all'impazzata. Gli artiglieri stanno aggiustando il tiro. Ben presto McGee sarà costretto a rinunciare. Ma all'improvviso il tedesco commette un errore decisivo. Ancora colonnello Charles McGee. Ha effettuato una virata che si è rivelata fatale. Probabilmente lo ha fatto per evitare il fumo che si sollevava dall'aeroporto. Ma così facendo si è messo proprio nella posizione sbagliata, perché mi ha dato la possibilità di sparargli addosso e di centrarlo in pieno. McGee apre il fuoco. Le sue 4 mitragliatrici colpiscono il bersaglio. Il Focke-Wulf sussulta con violenza per poi rollare. Il caccia si schianta al suolo con una violenta esplosione. Romain, che non ha preso parte all'inseguimento, si riunisce al suo capo formazione. Vittoriosi, i 2 piloti tornano nella loro posizione di partenza, in scia ai bombardieri. Il 332esimo continua le sue missioni di scorta fino alla fine dell'estate del 1944. E col tempo consolida la propria reputazione di gruppo disciplinato ed efficace. La storia e la memoria. Proseguiamo con il radio documentario sulla storia dei ragazzi di Tuskegee, i primi piloti afroamericani che combatterono durante la Seconda Guerra Mondiale sfidando i pregiudizi razziali della società statunitense. 12 ottobre 1944. Il pilota Lee Archer, uno dei ragazzi di Tuskegee, è impegnato in un difficile duello con un ME-109 e sta lentamente perdendo il confronto. Di colpo individua un secondo caccia tedesco. Ho guardato alla mia destra e ho visto questo tipo tutto solo. E stava volando dritto in assetto. Un bersaglio facilissimo. Tutti mi chiedono sempre, quando hai puntato il secondo aereo, non hai pensato a quello che ti stava dietro? Me ne sono completamente dimenticato. È per questo che poi sono stato colpito all'ala sinistra. Deve essere stato un colpo di cannone, perché mi aveva fatto proprio un bel buco. Archer si incolla al suo bersaglio. Il tedesco reagisce inarcandosi, per poi lanciarsi in picchiata. Intende raggiungere una base aerea amica. Ma la manovra non riesce. Il determinato americano riesce comunque a ottenere la sua quinta vittoria. L'americano accelera e si allontana. Ha abbattuto il rivale, ma si è allontanato dal suo capo formazione Wendell Pruitt, cosa che un gregario non dovrebbe mai fare. A quel punto l'unica cosa a cui pensavo era come spiegare a Pruitt che cos'era accaduto. Rimasto solo e a corto di munizioni, Archer rientra alla base. Il 332esimo gruppo caccia continua l'attività di scorta per tutto l'autunno del 44 e l'inverno del 45. All'inizio di marzo ha accumulato un totale di ben 74 vittorie nei duelli aerei. Ma verso la fine della guerra, sui cieli della Germania, si profila una nuova minaccia. Un velivolo che potrebbe rovesciare le sorti della guerra aerea. Il caccia a reazione, ME-262. Il jet tedesco rappresenta un grande balzo in avanti nella tecnologia aeronautica. Ha un vantaggio di 160 km orari sul Mustang e il suo armamento pesante rappresenta un grave rischio per i bombardieri americani. Ma per ironia della sorte, saranno proprio i ragazzi di Tuskegee, considerati non idonei a padroneggiare tecnologie sofisticate, i primi ad abbattere il caccia tedesco che molti ritengono invulnerabile. Il 24 marzo 1945. Il ronzio dei motori riecheggia sui cieli della Germania centrale. Un gruppo di 200 bombardieri B-17, le fortezze volanti, si dirige sul suo obiettivo. Un impianto di assemblaggio di carri armati a Berlino. Sono scortati dai Mustang del 332esimo gruppo caccia. Ma in fase di avvicinamento all'obiettivo, gli americani distinguono le inconfondibili sagome dei bimotori ME-262. Gli ME-262 non rischiano un assalto frontale. Si divideranno in piccoli gruppi attaccando lo sciame di bombardieri per tutta la sua lunghezza. Una formazione di quattro jet entra in azione aprendo il fuoco con i loro cannoni da lunga distanza prima che i Mustang possano affrontarli. I Messerschmitt si allontanano, ma un tedesco si fa temerario e sfreccia proprio di fronte al P-51 del tenente Earl Lane. Affidandosi al proprio istinto, il pilota si sgancia per inseguire il jet nemico. Giunto a 500 metri di distanza, Lane apre il fuoco. I colpi centrano il caccia nemico, ferendo il pilota. Il tedesco punta il suo jet verso l'alto e, dopo aver aperto il tettuccio, si lancia col paracadute. Meno uno. Più indietro, in coda ai bombardieri, l'attacco dei jet è sempre più intenso. Come un branco di lupi, i caccia tedeschi inseguono la loro preda da una certa distanza, prima di attaccarla. Il tenente Roscoe Brown, leader di una formazione di quattro Mustang, si guarda intorno alla ricerca di eventuali minacce ai bombardieri della sua zona di competenza. Stavo effettuando una virata a sinistra e all'improvviso ho visto questi jet che provenivano dal basso, a ore 7 e a ore 5. Roscoe Brown ha avvistato un'altra squadriglia di aerei a reazione che minaccia il gruppo di bombardieri che è incaricato di proteggere. Capitano Roscoe Brown, ex pilota. Un pilota da caccia non può perdere tempo per decidere cosa fare e dove farlo. I tempi di reazione sono vitali. Sapevo che era un jet e sapevo che era veloce. Sapevo già cosa fare. Ho detto, andiamo. Non stai a razionalizzare, non analizzi la situazione. Avevo sviluppato una manovra particolare. Tiravo la cloche, davo massimo potenza, azionavo il timone destro e poi mi rovesciavo. Boom! Andavo giù quasi fino a stallare. Così quando mi rovesciavo e spingevo in basso, la velocità aumentava. Dopodiché risalivo. La manovra è un rovesciamento modificato che garantisce a Brown una maggiore spinta in velocità, portandolo su una rotta di intercettazione con un ME-262. Ancora capitano Roscoe Brown. Quando sono uscito dal rovesciamento ho potuto vederlo. Stava venendo su, il tutto in poche frazioni di secondo. Roscoe Brown coglie l'occasione al volo. Il jet tedesco va in fiamme, perdendo pezzi. Il pilota deve lanciarsi. La vittoria è confermata. È il terzo ME-262 abbattuto della giornata. Ma non era ancora finita. Con questa manovra ero riuscito a buttare giù quel jet. Ma avevo perso il mio gregario, che in quel momento stava inseguendo qualcuno. Io stavo sorvolando Berlino a 7000 metri di quota e cercavo qualcuno a cui agganciarmi. E a ore 12 vedo la silhouette di questo P-51. Ma non avevo contatto radio e non avevo idea di chi fosse. Mi sono detto, ok, proviamo ad affiancarlo. Roscoe Brown si avvicina a quello che sembra essere un P-51 americano. Inizio la manovra e noto che sul fianco di quel Mustang c'è una croce della Luftwaffe. Sapevamo che i tedeschi ne avevano catturato qualche esemplare e cercavano di infiltrarsi in qualche formazione per avvicinarsi a portata di tiro. Così ho pensato, proviamo a prenderlo. Il pilota parte all'attacco, ma il tedesco effettua una manovra evasiva. Brown stringe a sé la cloche cercando di mettere l'avversario nel mirino. Ancora capitano Roscoe Brown. Ho tirato più forte che potevo e stavo guadagnando terreno. Ma poi ho guardato l'indicatore del serbatoio e ho visto che era un po' sotto la metà. A quel punto avevo due opzioni. La prima era di abbattere quel tizio, prendermi la vittoria e paracadutarmi sperando che non mi mitragliassero. Oppure fare ciao ciao e tornarmene a casa. Ho deciso di lasciarlo andare. Ho girato i tacchi, mi sono diretto a sud e ho sorvolato da solo il territorio nemico per 110 chilometri. Il pilota americano torna alla base vittorioso. Il bottino della giornata monta a 3 ME-262 confermati, altri 3 probabili e 2 danneggiati. Chris Buchlotz, esperto di aviazione. È stata una delle più grandi imprese della guerra contro gli ME-262. Il Mustang era un grande aereo, ma questa percentuale di successi contro dei jet è comunque impressionante. E non è l'unica impresa di quel giorno. Più tardi i ragazzi di Tuskegee vengono a sapere che quella di Berlino è stata la più lunga missione di scorta della guerra. Alla fine della guerra il 332esimo ha abbattuto 108 aerei nemici. Ha ricevuto 744 Air Medal, 150 Distinguished Flyer Cross, 14 stelle di bronzo e una di argento. Ma nonostante le decorazioni conquistate sul fronte europeo, i ragazzi di Tuskegee rientrano in un'America ancora dominata dalla segregazione, che sembra indifferente alle loro imprese. Tenente colonnello Lee Archer, ex pilota. Quando sono sceso dalla nave che mi ha riportato negli Stati Uniti, alla fine della passerella c'era un cartello che diceva soldati di colore a destra, soldati bianchi a sinistra. Eravamo di nuovo separati. E all'epoca ho pensato che era una vera vergogna. Ma lo sforzo bellico di questi uomini non passa inosservato. Nel 1948, per ordine del presidente Harry Truman, le forze armate aboliscono la segregazione razziale. Le imprese dei ragazzi di Tuskegee sui cieli d'Europa hanno scosso fin nelle fondamenta il razzismo presente nella società statunitense. Colonnello Charles McGee, ex pilota. Quando ci è stata data una possibilità, siamo riusciti ad ottenere grandi traguardi. Ed è stato importante perché siamo riusciti a dimostrare che ciò che conta davvero non è né il colore della pelle né l'estrazione sociale. Quello che è davvero fondamentale in un uomo, come ci ha insegnato Martin Luther King, è la sua personalità. Prima di chiudere, vi ricordiamo che la versione integrale del documentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel martedì 21 aprile alle 9.40, col titolo Lo Squadrone Nero. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Vittoria Mussini. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.